Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, questa settimana abbiamo voglia di andare lontano, sarà anche per il freddo e l'inverno ancora nel pieno. Noi facciamo le valigie e scappiamo, il sommario. Ce ne andiamo in Cina, meta inesauribile e dunque destinazione di più viaggi. Tanti paesi diversi in un unico confine, distanze inimmaginabili e una cultura molto lontana dalla nostra. E poi scopriremo come usare FreeNow, la piattaforma per la mobilità urbana. La religione insegna ai cinesi che siamo tutti come gocce di un grande fiume che va. Lo diceva Vittorio Bottafava, scrittore e giornalista. Una religione molto diversa da come la intendiamo noi, una spiritualità profonda che pervade ogni aspetto della vita. Vita vissuta giorno per giorno proprio alla luce di questa spiritualità. Michele Serra è presidente di Quality Group, che raccoglie diversi tour operator. È un grande conoscitore della Cina. E questo è il suo racconto. Io sono solito dire che la Cina è l'altra faccia della luna, nel senso che tutto quello che si è costruito da un punto di vista della civiltà, dell'architettura, della storia, della cultura in Cina è stato fatto in maniera totalmente indipendente rispetto al resto del mondo, e quindi si è venuti fuori fino al 1800, praticamente metà del 1800, con una civiltà che non aveva nulla a che vedere con quella nostra. Quando poi ci siamo incontrati, scontrati a metà dell'Ottocento, ci siamo resi conto veramente che quello era un altro mondo, un'altra terra. Ancora oggi le cose sono cambiate, naturalmente in 150 anni, la prima impressione che io ho quando vado in Cina è quella di trovarmi dall'altra parte del mondo, quindi dove non c'è nessun, diciamo così a prima vista, dove non c'è nessun contatto rispetto ai miei valori, ai miei modi di pensare, ai miei modi di ragionare, alla mia sensibilità estetica. Questo è il bello della Cina, ancora oggi. Si va a vedere qualcosa che è totalmente altro rispetto a quello con cui siamo cresciuti. Questo però presuppone anche una predisposizione d'animo nel momento in cui si sceglie la Cina come destinazione, su cui bisogna forse anche un po' riflettere prima di partire. Io direi che la Cina è un paese eccezionale, fantastico, pieno di cose meravigliose che stupiscono chiunque. Però, come giustamente dice lei, è uno di quei paesi che richiedono preparazione, perché sennò si rischia di andare a vedere cose mirabolanti ma senza capirle, e se uno non le capisce non se le gode fino in fondo. La Cina richiede un minimo di apertura mentale, perché comunque bisogna superare tanti luoghi comuni, e anche di preparazione, perché si va a vedere qualcosa che veramente è abbastanza stupefacente. Se non lo si capisce, alle volte non lo si riesce a cogliere nel suo valore profondo. Io, per fare un esempio, io in Cina ci vado da 30 anni e ci sono andato un sacco di volte, non so neanche contarle. La prima volta mi stupì da morire, ma non mi catturò. Mi ricordo che fu la terza volta, grazie a un romanzo che avevo letto, che in qualche modo entrai, riuscì ad aprire la porta, entrare nello spirito, e lì mi sono innamorato perdutamente. C'è qualcosa che le viene in mente che può talmente stupirci quando arriviamo ed essere talmente stupefacente da non riuscire a coglierlo subito? La cosa che mi ha stupito più di tutte è che quando si va a vedere una civiltà antica, uno degli aspetti più interessanti è proprio quello della religione, no? E io sono andato a vedere, a cercare la religione cinese, ma non esiste. La cosa che più mi ha stupito in assoluto, e mi stupisce ancora oggi, è che non esiste una tradizione religiosa in Cina. Esistono tradizioni filosofiche, esistono tradizioni sociali, culturali, esiste un misticismo della natura, ma una religione vera e propria non esiste. Quindi quando uno va nel tempio, perché esistono i templi ovviamente, buddisti, confuciani, taoisti, non capisce che cosa sta succedendo e che cos'è l'atteggiamento del cinese davanti all'oltre, davanti a ciò che sta oltre l'orizzonte. Questa è una delle cose che ti lascia più sconcertato, al punto tale che rimani deluso se non capisci invece qual è questa profondissima sensibilità che hanno i cinesi verso il mistero della natura. secondo me il misticismo cinese si coglie più in cima a una montagna che dentro un tempio. Che poi è un po' anche la loro forza, no? Questa grandissima spiritualità che riescono poi a infondere in tutto quello che fanno, anche se magari a noi non sembra perché non abbiamo questa abitudine, non sappiamo coglierla. Sì, io direi che il cinese è il popolo, ripeto, io parlo per esperienza, ma non sono uno studioso, quindi dirò un sacco di cose imprecise, ma il cinese è il popolo più resiliente che io abbia mai conosciuto. C'è un popolo, una cultura, una tradizione che ha una tale passione per questa vita che non si spezza mai, non si ferma mai, non la schiacci mai, recupera sempre, ricomincia sempre tutti i giorni, perché ha un attaccamento a questa vita che è prodigioso. Non c'è nessun tipo di rassegnazione, non c'è nessun tipo di speranza in un futuro, ma tutto si gioca oggi, e quindi giocandosi tutto oggi c'è una grinta che è quella che gli riconosciamo tutti quanti. Cioè, i cinesi hanno gli occhi di tigre, e quando arrivi lì te ne accorgi in una maniera incredibile, ti senti vecchio quando vai in Cina. Vediamo un po' di entrare di più nel paese, proprio nel paese vero e proprio, nelle strade, nelle piazze, nelle montagne, sì. Perché immagino che, essendo poi un paese così grande, abbia tantissimi tipi diversi di panorama, di scenario da offrire. Quindi io le chiedo qual è quello che l'ha colpita di più, qual è quello che colpisce di più. Allora, la prima cosa da dire è che c'è un paradosso, che la Cina è il paese che ha la più grande varietà di temi: natura, tradizione, cultura, storia, cucina, eccetera, eccetera, e la più grande varietà di panorami anche naturali, perché immagini quanto è grande, immagini la differenza di latitudine e longitudine, quindi tutti i panorami più assurdi del mondo sono presenti in Cina. Il problema paradossale è appunto che, siccome è un paese ancora in fondo ampiamente sconosciuto al turismo internazionale, che se ne dica, gli italiani o i turisti occidentali in genere conoscono della Cina solo alcune cose molto limitate, cioè le grandi città, e tutto il resto, praticamente tutto il resto il turismo si sta aprendo solo oggi. Quindi io direi che di cose che mi hanno colpito ce ne sono infinite in tutti questi anni, però di cose che oggi potrei presentare al mercato dovrei limitarmi, mi fermerei ad alcuni aspetti della tradizione, che sono le grandi città, evidentemente tutta la storia imperiale, e alcune cittadine che sono rimaste intatte rispetto ai tempi dell'ultima dinastia, e quindi mi fermerei a Pechino, Xi'an e Pingyao, visto che devo selezionare, ad alcuni aspetti della natura che sono i più clamorosi, ma ce ne sarebbero 100.000, ma mi fermo a tre. E quindi naturalmente Guilin, che tutti conoscono, le famose schegge di Giada, le colline trasformate dall'erosione in un panorama fiabesco che tutti conoscono, le montagne di Avatar che nessuno conosceva fino al film, che io sono andato a visitare prima del film e sono rimasto scioccato, e le montagne gialle che sono meno conosciute, però sono fra i panorami più incredibili, è quello che uno sogna della Cina quando guarda Kung Fu Panda, per dire. E quindi sono le tre cose che prima emergono dal punto di vista naturale. Io lascerei da parte Pechino, ma non perché... perché non ha bisogno. Per una questione, esatto, perché non ha bisogno e perché ovunque possiamo trovare delle informazioni. E invece le chiederei di spendere qualche parola in più sulle altre due città che ha nominato. Io comincerei da Pingyao, visto che anche Xi'an, la città dell'esercito di terracotta, ha poco bisogno di introduzione, ma cominciamo da quella che pochi conoscono, Pingyao, che è già difficile da pronunciare, è una cittadina che sta a metà strada fra Pechino e Xi'an. Chi giunge fin qui scopre di aver viaggiato, diciamo, non solo nello spazio, ma anche nel tempo, perché come per incanto viene proiettato in un'atmosfera appunto da film, un'atmosfera di una dinastia imperiale, l'ultima, la dinastia Qin, quella della dominazione Manciù, dei cinesi col codino, adesso qualche immagine qualcuno ce l'avrà, dei mandarini confuciani. Siamo fra, diciamo così, il XVII e il XX secolo, quando la Cina, che ancora fino al 1850 era totalmente è splendidamente isolata dal resto del mondo, a un certo punto ha subito un'umiliante sconfitta con gli inglesi, la guerra dell'oppio, qualcuno se la ricorderà, e fu costretta in qualche modo a conciliare le proprie tradizioni millenarie separatiste, come dicevo, con la modernità europea, e quindi arrivò il grande clash, il grande scontro fra l'Occidente e l'Oriente. Poi arrivò la Repubblica e si portò via i mandarini e i codini. Poi arrivò il comunismo che abolì il confucianesimo e le tradizioni. E la Cina è diventata moderna, ma in tutto questo tempo si sono dimenticati di questa città. Nessuno si è mai preso la briga di venire fin qui, di abbattere le sue mura e modernizzare la città. Quando poi è finita l'epoca del maoismo, diciamo agli inizi degli anni Ottanta, e il turismo ha cominciato a diventare una risorsa economica, si sono accorti di avere per le mani un tesoro incredibile, una città intatta, perfetta, pronta a rivivere i fasti di un tempo. Bastava semplicemente dare una rinfrescata, trasformare le case in guest house e ricominciare. Stesse strade, stessi ristoranti, stessi templi, stessi arredi. Si torna indietro i 200 anni. È impressionante l'emozione che si prova, perché si viene trasportati in un altro mondo. Neanche i letti sono cambiati. Si dorme ancora sugli antichi kang, che erano quelli di mattoni riscaldati al loro interno. L'unica cosa che non si trova più sono i codini. Per il resto si è tornati indietro i 200 anni. Di Xi'an dico solo due parole, basta dirne una: la città dell'esercito terracotta, la più imponente schiera militare della storia, datano di 2300 anni fa, il primo imperatore della storia. Qui si va veramente agli albori della civiltà cinese, la civiltà che chiamiamo sul fiume giallo, perché Xi'an è su un affluente del fiume giallo, e quindi la civiltà cinese è nata qui. Ci fermiamo per qualche istante, restate con... Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Globetrotter 24. Finché verrà il mattino, libro di Han Suin. Questo è il romanzo a cui faceva riferimento Michele Serra nella prima parte dell'intervista. Una storia che ha come sfondo la Cina della Seconda Guerra Mondiale ai primi anni 70. Io immagino che in tutti questi anni lei l'abbia girata in lungo e in largo. Noi abbiamo toccato solo ovviamente alcuni punti, anche perché di solito purtroppo i viaggi hanno un inizio e una fine, per cui non si può stare in giro mesi e mesi. Ahimè. Però io le chiedo, c'è qualcosa che secondo lei in tutto questo suo viaggiare per la Cina ha visto che l'ha particolarmente colpita e che secondo lei fino a questo momento non ha ancora ricevuto la giusta valorizzazione dal punto di vista, diciamo, turistico, anche se questo potrebbe anche essere un bene, però comunque che secondo lei varrebbe veramente la pena di andare a vedere, anche se magari si trova lontano, se si trova sperduto, se si trova in una posizione difficile da raggiungere? È una domanda la cui risposta è difficilissima, perché dovrei parlare per 6 ore e ce ne sono troppe. Ne scelgo una per brevità, ed è una provincia che sud-occidentale che si chiama il Guizhou, che non è nel mio catalogo, perché l'abbiamo pubblicata, io l'ho scoperta tantissimi anni fa, fu il viaggio più emozionante di tutta la mia storia in Cina. Provai a pubblicarlo, ma appunto, essendo sconosciuto allora, poi non c'era neanche il treno di Instagram, dei social, rimase praticamente invenduto, e poi era un viaggio difficilissimo allora, no? Il Guizhou che cos'è? Una provincia intera, quella che si chiamava la provincia delle minoranze etniche, dove la più povera della Cina, isolata, dove avevano trovato rifugio molte minoranze etniche, diciamo così, della zona sud-est asiatica, dove non arrivava l'imperatore perché era troppo lontana, non valeva neanche la pena perché era povera, e quindi hanno continuato a coltivare le loro tradizioni, i loro usi, i loro costumi in un ambiente naturale veramente che sembra fuori dal mondo, no? Uno dei posti più inaspettati, inimmaginabili che si possa pensare in tutto il mondo. Quindi una combinazione di culture antichissime, di tradizioni particolarissime e di natura spettacolare. Questo è totalmente vergine, è rimasto totalmente fuori da ogni circuito. Quest'anno a maggio ho deciso di tornare indietro perché, visto lo sviluppo turistico, una cosa importante da dire è che i cinesi sono dei grandissimi turisti e quindi creano strutture turistiche per il proprio mercato interno. E quindi ho deciso dopo tanti anni di tornare a vedere che cosa, come è stata migliorata l'infrastruttura turistica e vedere se posso ricominciare di nuovo a proporre questo paradiso perduto al turismo italiano. Un'ultima battuta la vorrei dedicare al cibo, perché sì, è sempre un grandissimo strumento per conoscere un altro popolo, e perché noi partiamo per l'Oriente molto spesso con tanti pregiudizi e forse anche per quanto riguarda la cucina in Cina potremmo avere delle grandi sorprese. La cucina cinese non esiste. Ho detto tutto, c'è 1.300.000.000 di abitanti, ci sono 25 province, la cucina cinese sono 25 cucine diverse, ci si trova di tutto, non esiste cosa fra cielo e terra che i cinesi non provino a mangiare, l'unica cosa che non mangiano sono le gambe del tavolo, questa è una battuta che fanno loro, tutto ciò che esiste è stato messo sulla tavola dei cinesi, quindi già questo basta per dire che in Cina ci sono le cose più buone al mondo e le cose più cattive, più disgustose al mondo. Quindi non avete che l'imbarazzo della scelta, potete trovare tutti i gusti esistenti sulla faccia della terra. Questo già la dice tutta. Noi italiani abbiamo selezionato e abbiamo scelto solo ciò che è buono, per cui noi diamo da mangiare al mondo, ma anche i cinesi danno da mangiare al mondo e gli danno da mangiare tutto. Quindi non esiste persona sulla faccia della terra che non possa trovare in Cina il miglior cibo della sua vita. Naturalmente bisogna stare attenti perché si può trovare anche il peggiore e io purtroppo ne sono testimone. Questa ultima affermazione impone che almeno un accenno a questa testimonianza lei lo faccia. Allora, le dico dell'unica cosa che ho rifiutato di mangiare, mi sono rifiutato, ed era il cervello di scimmia fresco. Si incastrava una scimmia in un tavolo di ferro con un buco in centro, viva, le si tagliava la parte superiore del cranio e con un cucchiaino si mangiava il cervello fresco. Ecco, io mi sono alzato e me lo sono andato. E questo direi che è comprensibile. Poi l'hanno vietato per questioni igieniche, non per pietà verso le scimmie, perché i cinesi con la loro particolare cultura non hanno molta pietà verso gli animali, ma perché avevano capito che anche da un punto di vista igienico era troppo rischioso, ecco. In realtà l'ultimissima domanda che vorrei farle è questa. Immagino che negli ultimi anni la Cina sia diventata anche più semplice da girare e immagino che la tecnologia in questo abbia dato una grande mano. Sì, assolutamente. Oggi, adesso non abbiamo tempo di esplorarne la storia, ma oggi la Cina è cambiata anche perché i temi del turismo cinese sono aumentati, non ci sono più unicamente gli aspetti della tradizione, della cultura, della natura, dei grandi monumenti, della storia, ma c'è anche l'aspetto della tecnologia e quindi oggi si va a vedere anche il mondo del futuro, da un punto di vista, se noi andiamo a Shanghai, se noi andiamo da un punto di vista non solo delle infrastrutture, quindi degli alberghi, delle strade, delle autostrade, aeroporti, treni che volano, l'unico treno a levitazione magnetica in funzione nel mondo oggi in Cina e altre diavolerie del genere, ma ci sono anche esperimenti di ingegneria sociale che sono terribilmente interessanti, di segno positivo o negativo, ci sono degli esperimenti di ingegneria sociale che sono uno dei temi per cui si va a visitare la Cina, si va a capire che cosa potrebbe diventare il mondo domani. C'è una sfida culturale della Cina nuova che è uno dei temi più interessanti per un viaggio in Cina. Ripeto, è per questo che in Cina bisogna andare preparati, perché la Cina ti sciocca con le sue proposte. Torniamo in Europa per parlare di mobilità urbana, come muoversi con mezzi alternativi al trasporto pubblico, per esempio attraverso FreeNow. Barbara Covili è la responsabile delle strategie aziendali. FreeNow è un'app per chiamare i taxi, è molto semplice, basta scaricarla gratuitamente da qualunque store, quindi attiva sia per iOS che per Android, quindi per ogni tipo di telefonino, e una volta scaricata si clicca direttamente sull'applicazione, l'applicazione si apre e magicamente ti geolocalizza. Quindi sostanzialmente, se la stai usando in una città che non è la tua città d'origine o la città in cui vivi, rende tutto molto semplice, perché tramite la geolocalizzazione tu puoi lanciare direttamente la chiamata al tassista senza aver bisogno di inserire l'indirizzo di partenza, e a quel punto la chiamata viene lanciata ai tassisti che sono nella zona, sempre ovviamente al tassista più vicino. Nel momento in cui il tassista accetta la corsa, in quel momento avviene lo scambio di informazioni tra te e il tassista, e questa, diciamo, è un po' la rivoluzione contenuta all'interno dell'applicazione. Nel momento in cui il tassista accetta la tua chiamata, vede chi sei e tu vedi chi è il tassista che ti sta venendo a prendere, vedi con che auto ti sta venendo a prendere, la targa e il nome e cognome del tassista. Ugualmente il tassista dall'altra parte vede che tu sei Mario Rossi e che Mario Rossi sta facendo questa chiamata. Nel momento in cui si usa questa applicazione, immagino ci sia anche un metodo di pagamento che passa attraverso l'applicazione. Esatto, il metodo di pagamento è, diciamo, per noi è stata la chiave di volta del successo in Italia, perché garantiamo la possibilità di pagare con la carta di credito. Se vuoi ovviamente puoi switchare il pagamento e decidere anche di pagare in contanti, però diciamo nel 2015, quando abbiamo lanciato, questa è stata la grande rivoluzione. Puoi pagare con la carta di credito, puoi pagare con una prepagata, PayPal, Apple, tutti gli ultimi sistemi di pagamento sono possibili tramite l'app. In quali città è operativa questa applicazione? Attualmente in Italia siamo attivi in 7 città, quindi Milano, da cui siamo partiti nel 2015, Roma, Torino, Napoli, Cagliari, Catania e Palermo. Mentre all'estero? All'estero siamo presenti in oltre 100 città europee, quindi nelle più importanti capitali in Europa, di 9 paesi europei. Barbara, diciamo che abbiamo preso un po' la palla al balzo, perché avete aggiunto un nuovo servizio, un servizio che è quello appunto del monopattino elettrico, che io ho già visto in alcune città europee, però in questo caso parliamo dell'Italia. Sì, in questo caso parliamo dell'Italia, partiamo da Torino, abbiamo annunciato l'integrazione con un servizio di monopattini elettrici Hive, che fa sempre parte della famiglia FreeNow, quindi una delle società del gruppo. È un servizio che abbiamo lanciato già, come giustamente dicevi, in altri paesi europei, e abbiamo testato che questa unione dei micromobilità, quindi dei piccoli spostamenti urbani, con il sistema taxi è perfetta, perché ovviamente col monopattino elettrico non fai lunghe distanze, ma ti sposti, diciamo, di 1 km, 2 km, mentre ovviamente il taxi lo usi per altri tipi di spostamenti. Inoltre questo servizio piace moltissimo a una fascia di età, diciamo, giovane di persone, e quindi è un connubio assolutamente perfetto. Siamo molto contenti di lanciare questo servizio, per ora partiamo da Torino, ma speriamo poi di allargarci a altre città italiane. Prima di salutarci, qualche spunto. Fino al 31 gennaio a Milano, a Palazzo Lombardia, il Touring Club presenta la mostra Immaginario, 125 originali, viaggio a sorpresa negli archivi del Touring. Stampe vintage che raccontano l'Italia dall'arte al lavoro, dal paesaggio alla società. E ancora a Milano, al Museo della Scienza e della Tecnica, aperture straordinarie serali per le nuove gallerie di Leonardo.